Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno di nuovo a tutte e tutti e bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV. Oggi è martedì 28 luglio e io sono sempre Caterina con Antonella Cortese, a cui do il buongiorno. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Alla conduzione di questa mezz'ora quotidiana di programma fra il carcere e la città che ci accompagna da gennaio e che va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, oltre ovviamente alle nostre rubriche. Oggi parliamo di che vanno invece in onda tutti i giorni, sempre. Antonella, apri tu. Caterina, io prima di tutto ringrazierei tutti i sostenitori che fino ad oggi ci hanno permesso di andare avanti anche in agosto e speriamo anche in settembre. Voi sapete che abbiamo già raggiunto il nostro plafond di agosto, ci avete dato veramente la possibilità di entrare nelle case e nelle celle per tutto il mese estivo. Rilanciamo, proviamo a farlo anche a settembre col vostro aiuto, quindi continuate a donare, il crowdfunding è ancora aperto fino al 31 luglio e andate su www.ideaginger.it, cercate Eduradio TV e fate la vostra donazione. Grazie. Vi ringraziamo, mentre cercate ancora negli ultimi due o tre giorni prima della chiusura della campagna, vi racconto le notizie di oggi. Firenze, un grande murale sul carcere può ridare libertà, a cura di Tommaso Montanari su Il Fatto Quotidiano. È perché la storia sconvolgente di Santa Maria Capua Vetere, una storia su cui giustizia deve essere davvero fatta, ci ha sbattuto ancora una volta in faccia quanto sia dura la vita all'interno del carcere. E sappiamo che all'interno del carcere il corpo delle persone detenute, il corpo di chi è affidato ormai inerme al potere dello Stato, permette di misurare anche il grado di dignità che riconosciamo alla persona umana e quindi anche alla nostra umanità. C'è tantissima letteratura su questo, una persona che voglio citare è per esempio il giurista italiano Gustavo Zagrebeschi, che scrive: le carceri riguardano innanzitutto noi, che ci interroghiamo sui caratteri della società in cui vogliamo vivere e sui principi ai quali diciamo di essere tanto affezionati. Proprio per questo è importante quello che è accaduto a Firenze la settimana scorsa, anzi le settimane scorse, no? È proprio vero, sul muro della casa circondariale Mario Gozzini, che è il primo carcere italiano a tutela attenuata, è stata inaugurata una grande pittura murale, una scritta che buca, tra virgolette. Infatti ci sono poche cose quanto l'arte a riuscire ad abbattere, almeno simbolicamente, culturalmente, quelle mura e quelle cancellate. Ed è questo, esattamente questo, a cui il progetto mira. Grazie alla direttrice Antonella Tuoni e alla professoressa Camilla Perrone dell'Università di Firenze e insieme al garante dei detenuti, delle persone private della libertà personale, si è voluto dare l'avvio a questo progetto di un murales sulla casa circondariale. Gli artisti dell'associazione Electro Domestic Force hanno incontrato a più riprese i detenuti per decidere insieme che cosa dipingere su queste mura. È stato definito che il murale debba portare colori e messaggi positivi. Questo perché il target di pubblico che lo vedrà, e quindi gli utenti che vedranno questo murale, saranno principalmente i figli e le famiglie delle persone detenute, i quali, passando molto tempo davanti e dentro le mura ad aspettare le persone che vogliono incontrare, magari hanno desiderio di vedere una cosa che porti i loro sentimenti positivi, ecco, e non tristi. Quindi un desiderio comune è quindi stato quello di non rattristare maggiormente le famiglie che già subiscono un forte disagio per la mancanza del loro parente. Alla fine che cosa si è deciso di rappresentare precisamente? Alla fine si è deciso di rappresentare un uomo di muro, cioè fatto di mattoni e cemento, che si toglie i mattoni di dosso e li trasforma in assi di legno per poi usarle per la costruzione di una nave, per iniziare un nuovo viaggio. Quindi una scena molto evocativa. L'idea è che la parola detenzione muti progressivamente in quella parola che cambia solo di due consonanti, che è redenzione. Quindi questo è il viaggio della nave, questo è il viaggio che i detenuti vogliono intraprendere, e la Costituzione della Repubblica è dalla loro parte, chiaramente. E c'è da sperare, conclude l'articolista che Firenze si accorga di quello che succede oltre quelle mura e oltre quel murales, perché è da lì che può venirle aiuto, intelligenza e senso di giustizia. Mentre, denuncia sempre chi ha scritto questo articolo, la bellezza di Firenze è sempre più disumana e mercificata, è proprio dai margini e dai marginali che potrebbe venire invece quella parola di liberazione che rompa l'incantesimo di una città senza più anima. Ma adesso ascoltate una canzone con, rimanendo in tema città, Negramaro, Sei tu la mia città. A tra poco. La strada si aggroviglia nei tuoi capelli, i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere, e le macchine ti attraversano senza più guardare. E sciogliti i capelli del fango solo se ci riesci, e allacciami i tuoi dubbi alle scarpe se poi tu non mi credi. Se non mi credi. Il cielo lo reggono ancora i miei difetti, le mani si incastrano e formano grattacieli, le scuse attaccale bene così non cadi. Le unghie affilate resistono tagliando i vetri, e asciugami i pensieri col fiato degli ultimi alberi, accendimi di notte le insegne dei più bei ricordi, concedimi la pace dei treni senza più rimorchi, e puntami negli occhi come un tram a fari spenti, investimi di luce se non mi vedi ancora in piedi. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quanto è voglia di sentire addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città. Le case che aprono le gambe agli sconosciuti, e le chiese sono bocche di donne coi fucili appesi, le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni, il fumo porta via con sé gli ultimi avanzi, nascondimi dagli altri. E rieccovi, bentornati sulle note dei Negramaro, sempre su Liberi Dentro e Radio TV. Parliamo di UFO, Antonella? Sì, la mia cronaca dall'estero oggi è addirittura extraterrestre. Infatti parliamo di avvistamenti e di oggetti volanti non identificabili. E prima di tutto, tu hai mai visto un UFO? No. No. Sono sincera. Veramente? No. Forse neanch'io, non lo so. Però il Pentagono conferma 143 avvistamenti UFO, ma non c'è veramente prova e restano un po' senza spiegazione, diciamo la verità. È comunque un rapporto che suscita molte domande e fornisce poche risposte, quello sugli UFO diffuso dal Pentagono USA, e nel quale gli avvistamenti di oggetti non identificati restano tali, cioè non identificati, e apre a teorie però appassionanti, Caterina. L'esistenza o meno degli UFO resterà argomento di dibattito pubblico nonostante il resoconto del Pentagono. Il rapporto sui fenomeni aerei non identificati, denominati WAP nel gergo ufficiale, si basa per lo più su osservazioni di militari statunitensi, quindi insomma sono una cose serie, ecco. E gli Stati Uniti non hanno una spiegazione sugli UFO, o meglio sui fenomeni aerei non identificati. E quindi mancanza di prove, perché è di questo che si tratta. Il Pentagono degli Stati Uniti cosa dice? L'atteso rapporto del Pentagono e dell'intelligence, riportato poi dai media americani, non offre conclusioni definitive, come potrai immaginare. Allo stesso tempo però, e questa è la grande novità, non esclude attività aliena, lasciando di fatto per la prima volta la porta aperta a nuove teorie sugli extraterrestri. Infatti i 143 episodi registrati dal 2004, su un totale di 144 quindi, restano senza alcuna spiegazione, e di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia o Cina o altri paesi con tecnologia ipersonica. Non ci sono prove che gli episodi registrati riguardino programmi militari segreti, tecnologia sconosciuta russa o cinese o visite extraterrestri, questo l'hanno definito. Ma anche in mancanza di prove si tratta, precisa sempre il famoso rapporto, di spiegazioni che non possono essere scartate del tutto. Il rapporto, anche se inconcludente, come abbiamo capito, segna la prima volta che il governo americano ammette pubblicamente l'esistenza di tali fenomeni. Quindi si annuncia, tra l'altro, la creazione di una banca dati per fenomeni aerei non identificati e l'istituzione di protocolli specifici per riportarli. Questo con l'obiettivo sempre di raccogliere maggiori informazioni e dati che al momento mancano, rendendo difficile raggiungere le conclusioni sperate. Il fascino degli UFO, però, te lo voglio dire, risale al 1947, quando il pilota di un piccolo aereo riferì di aver visto 9 oggetti simili a dischi volanti che si spostavano a velocità supersonica vicino al Monte Rainier, nello stato di Washington. Il suo resoconto ha dato così origine a un titolo di giornale sui dischi volanti e ha preceduto un'ondata di avvistamenti statunitensi simili nei mesi successivi, cioè tutti vedevano questi dischi volanti. Nello stesso anno i funzionari militari statunitensi dissero che i relitti trovati vicino a Roswell, nel Nuovo Messico, rappresentavano i resti di un pallone meteorologico precipitato. Vabbè, lo scetticismo governativo sui rapporti della CIA dell'epoca, sulla potenziale minaccia per la sicurezza nazionale, perché questa poi era la grande paura, portarono a indagare i molteplici avvistamenti con un piano segreto denominato Project Blue Book, ricerche dell'aeronautica militare statunitense condotte tra il 1947 e il 1969, classificando 701 casi su ben 12.000 come non identificati prima che il progetto si concludesse nel 1969. Quindi questo oltreoceano, ma rimanendo in Italia? Cara mia, la stampa scrive di avvistamenti nel mese di maggio, infatti le segnalazioni di oggetti volanti non identificati e avvistate dai cittadini ormai finiscono nei registri pubblicati della Forza Armata. La stampa ci scrive di alcune segnalazioni fatte dai cittadini di oggetti volanti non identificati, che sono stati però trascritti nei registri del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore. Negli ultimi 2 anni ci sono state ben 11 segnalazioni, oltre le 3 di quest'anno, avvenute in maggio. Che dire, io rimango nello spazio, Caterina, rimango nello spazio con David Bowie, con Space Oddity, cioè stranezze spaziali. Ascoltatelo un disco meraviglioso. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. L'associazione Il Podeschi per il Carcere di Bologna ha preso parte al progetto Eduradio Liberi Dentro attraverso la partecipazione a 3 diversi laboratori. Liberation Prison Project è con Eduradio per parlare di buddismo. Per condividere esperienze di liberazione della mente, la nostra vera prigione. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Bentornati su Liberi Dentro Edu Radio e TV. L'ospite di questa metà mattina con noi è Beatrice Draghetti, presidente di FOMAL. Bentornata. Grazie, grazie ancora dell'invito, lo accetto sempre molto volentieri. E ricordiamo che FOMAL è l'ente accreditato dalla Regione per la formazione professionale nell'ambito della ristorazione e dal carcere minorile del Pratello. La scorsa volta, dopo averci presentato un po' gli obiettivi di FOMAL, che magari ti chiedo un po' di ripresentarci perché magari ce li siamo per rispolverarci la memoria, abbiamo parlato anche dell'osteria Brigata del Pratello, che è l'unica osteria in Europa all'interno di un istituto penale minorile. Ci sono degli aggiornamenti? Raccontaci un po' le ultime cose. Sì, in generale, ecco, FOMAL, appunto l'hai già detto tu, è un ente di formazione professionale che porta i ragazzi e le ragazze che qui si iscrivono all'ottenimento della qualifica professionale. Quindi noi accogliamo allievi e allieve che vengono in genere dal primo anno della scuola superiore e con noi stanno 2 anni. Quindi da noi si esce con le competenze di cuoco, di barista e di operatore di sala. E come ente di formazione professionale da tantissimi anni ormai facciamo questa formazione anche all'interno dell'istituto penale minorile. Quindi questa è un'esperienza già antica di anni. Anche noi abbiamo fatto le nostre fatiche in questi 2 anni di Covid perché soprattutto per l'aspetto laboratoriale si fa un po' fatica a pensare all'attività a distanza, no? Però insomma, ci siamo organizzati un po' secondo le regole anche della scuola, quindi laboratori in presenza, per cui non abbiamo allentato del tutto il rapporto da vicino, insomma, con gli studenti. Per quanto riguarda l'osteria, la Brigata del Pratello, purtroppo questa si è fermata 1 anno e mezzo fa perché noi, in base a questa esperienza, noi aprivamo alla città la possibilità di venire a cenare una volta al mese dentro al carcere. Un successo grande, perché pensa che noi abbiamo chiuso con 600 prenotazioni che sono lì che aspettano una ripresa. Ci sono tutte le condizioni per riprendere, naturalmente, quando ci saranno tutte le condizioni di sicurezza per poterlo fare, perché non ci possiamo permettere un focolaio dentro a una situazione del genere. Quindi facciamo tutto il tifo. Però io so, Beatrice, che ci sono anche dei progetti qui in divenire per il FOMAL. Quali sono? Quando insomma, si fa formazione in generale, poi formazione professionale in questo caso, è chiaro che non si può mai stare quieti. Per permettere alle persone di riscommettere sulla loro possibilità di crescere, di avere successo, di crescere come persone, come cittadini, anche come lavoratori, è chiaro che c'è bisogno di un accompagnamento di adulti qualificati, competenti, che come sempre succede nell'ambito della scuola e della formazione, non possono permettersi di limitarsi a trasmettere competenze, come si fa una cosa, come si fa un'altra. Occorre trasmettere anche proprio una passione, una dedizione personale che cerca di trovare anche tutti i metodi possibili, immaginabili, strade nuove, strade inesplorate, per far sì che i ragazzi, soprattutto questi che frequentano da noi, che sono un po' appesantiti anche da fallimenti scolastici, da insuccessi, per ritrovare invece una grande fiducia in se stessi e ricominciare a camminare. E non parliamo per sentito dire, parliamo anche basandoci su delle esperienze molto belle che ci hanno già dimostrato di poter fare passi significativi. Grazie Beatrice, breve pausa musicale e ritorniamo tra poco sempre sul FOMAL, ma da una prospettiva, diciamo, post-pandemica. Grazie, a tra poco. can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio e TV. Abbiamo come ospite Beatrice Draghetti, presidente di FOMAL, e stiamo parlando delle attività di FOMAL, quelle sospese, quelle in ripristino e quelle nuove. Però c'è una cosa da dire, che la pandemia ci ha abituato a questa parola, a distanza, la parola anche chiusura degli spazi dell'incontro, non solo all'esterno come cittadini liberi, ma anche e soprattutto per chi sta in carcere, quindi anche gli istituti di pena minorile. Ma quanto è importante, Beatrice, il valore aggiunto della presenza? La presenza è insostituibile, quindi quando manca la si anela, la si desidera, perché la sua è un'efficacia davvero preziosa e unica. Quindi noi sogniamo di poter di nuovo tornare alla situazione in cui i ragazzi li vediamo, li tocchiamo, ci guardiamo negli occhi e ci parliamo direttamente. Le tecnologie nuove, i metodi nuovi che abbiamo sperimentato in questi 2 anni sono sicuramente delle opportunità importanti, ma da aggiungere. E proprio anche in preparazione a questa accoglienza di nuovo di ragazzi in presenza, volentieri io annuncio anche che il nuovo anno scolastico lo avvieremo utilizzando anche una nuova sede integrativa per le nostre attività di formazione dietro alla sede di FOMAL, quella che c'è adesso. Noi stiamo in via Pasubio a Bologna e poco distante, voltato l'angolo, abbiamo avuto la possibilità di costruire una sede integrativa. La pensiamo proprio per accogliere di nuovo i ragazzi nella pienezza dell'orario a disposizione. Ecco, e direi che, finisco, bisogna andare avanti come luogo di formazione su questi 2 binari. Luoghi possibilmente belli, dove far stare i ragazzi, e contemporaneamente opportunità di formazione non scontate, non trite, ma sempre attenti alle nuove domande, ai bisogni dei ragazzi. Bisogna muoversi su 2, sul materiale e sull'immateriale. E poi ricordo, come dicevi tu prima, che intanto che fate per noi di Eduradio TV questa bellissima rubrica Chef al Fornelletto, dove abbiamo Francesco Marcone come chef che fa scuola. Abbiamo già un elenco lungo di ricette, no? Sperimentate. Assolutamente sì. E tanto più questo valore della presenza, perché è proprio per i formatori, vero Beatrice? Soprattutto per noi. Noi ce lo siamo detti tante volte con Francesco e con gli studenti che hanno partecipato. noi vorremmo prima o poi entrare al carcere della Dozza per incontrare e conoscere le persone che magari ci hanno seguito attraverso questo programma. Ci piacerebbe conoscerli in faccia. Grazie Beatrice, io sono sicura che ascoltandoti hanno già voglia anche loro di incontrarvi di persona. Chissà magari che non ci sia uno chef in erba. Davvero. Buon lavoro, buon cammino e grazie di tutto. Grazie a te, a presto. Ciao. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare? Posso fare a meno di te, che sei l'infinito tra i miei desideri. La la, tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare. Posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito tra i miei desideri. Siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata, noi ci salutiamo dopo aver ascoltato le parole di Beatrice Draghetti di FOMAL e ci rendiamo appuntamento a tra poco con le rubriche Oggi parliamo di, oggi abbiamo percorsi di pace e a seguire la rubrica Lettere dal carcere. E vi salutiamo sempre, vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro, @gmail.com oppure attraverso la posta Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Un saluto da me, da Antonella Cortese e ovviamente dal nostro Enea Flacco al montaggio di queste puntate. A domani e un saluto a tutte e tutti. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.